America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi ci occupiamo di una questione molto specifica, cioè di pubblica istruzione in America, dei problemi soprattutto della pubblica istruzione nei quartieri poveri, criminalità, danni economici. Tutto questo deriva da un documentario che lascerà il segno, ancora non è uscito, lo abbiamo visto per voi in anteprima, si chiama Waiting for Superman, Aspettando Superman. I don't know what college I want to go to, but I know I want to be a teacher. I want to be a nurse, I want to be a doctor. Sono le voci di due ragazzine di 12 e di 9 anni. La prima dice di voler essere un insegnante, la seconda un infermiere, un dottore, vuole farlo per così poter fare del bene. Sono ragazze poverissime che sognano un mestiere, un sogno legittimo. Quasi certamente non ce la faranno, non ce la farebbero neppure appunto con l'aiuto di Superman, perché in America il fenomeno della sottoeducazione riguarda addirittura milioni di ragazzini, un fenomeno che diventa economico oltre che sociale, che peggiora invece di migliorare. Pensate che dal 1960 al 2006 l'America è precipitata dal primo al 18° posto nella classifica per eccellenza educativa calcolata su 24 paesi industrializzati, dunque quasi ultima. Either the kids are getting stupider every year, or something is wrong in the education system. O i ragazzi diventano più stupidi ogni anno, oppure c'è davvero qualcosa di sbagliato nel sistema. Jeffrey Canada è un suo motto questo, un insegnante attivista che si dedica alla creazione di scuole che con i soldi pubblici lavorano come scuole private, e sono le cosiddette charter schools, cioè ottengono la possibilità di gestire soldi pubblici ma in modo privato e sotto forma non profit. La sua missione è qui a New York, a Harlem, e Canada è uno dei protagonisti di questo documentario di cui vi parlavo, di Davis Guggenheim e di Sletty Chilcott. Sono gli stessi che hanno vinto un Oscar per Inconvenient Truth, il famoso film prodotto sulla base del libro di Al Gore. Questo film uscirà il 24 settembre, ma in America se ne parla già moltissimo. L'ho potuto vedere in anteprima, bellissimo, commovente, con il finale a suspense, perché questo film è tutto costruito sulla lotteria. Il film segue 5 ragazzi e ragazze e attraverso di loro ci dà uno spaccato di questo sistema scolastico americano davvero disastrato. La domanda di fondo in questa lotteria è, beh, chi ce la farà? 12 2. And the last number? I numeri che avete sentito, 20, 9, 18, 10, 12, 2, non sono numeri all'otto, ma sono i numeri di un sorteggio che consente di entrare in scuole pubbliche in America dove non gira droga, dove non si portano coltelli, dove non c'è bisogno di chiamare la polizia, soprattutto dove si insegna. Il paradosso americano è che per i poveri il biglietto per una scuola migliore è affidato al sorteggio, non al merito, come succede invece generalmente in questo paese, perché i meritevoli in realtà sono molti, molti di più di quelli che il sistema può ospitare, il sistema buono naturalmente. È un problema questo che esiste da sempre. Ricordo addirittura una decina d'anni fa andai a una scuola a Queens dove c'erano i metal detector all'ingresso. Sentiamo Leslie Chilcott, produttrice del film che ho intervistato l'altro giorno. Now in 2010 in America we have all of the tools and all of the metrics to actually make it so that every child can get a great education. Ecco, la Circo ci dice che il messaggio è che nel 2010 in America abbiamo tutti gli strumenti e le matrici giuste per far sì che un singolo bambino, nonostante il background e la classe sociale, possa avere un'ottima istruzione, e che i cambiamenti sono già in atto, ma bisogna lavorare molto di più. Ci racconta poi del film, dice: è stata la cosa più straziante che abbia mai fatto. L'America affida il futuro dei nostri bambini nelle mani del caso. Non dovrebbe essere così, dice la Circo. E veniamo un po' ai numeri, alle conseguenze di questa situazione. Beh, vi do uno spaccato. Il 30% delle scuole americane sono sottoperformanti. 6,2 milioni di giovani americani fra i 16 e i 24 anni lasciano la scuola prima del diploma. In molti distretti questo vuol dire un ragazzo su 5 addirittura. Il 40% delle ragazze che lasciano la scuola resta incinta fra i 14 e i 19 anni, e c'è naturalmente un circolo vizioso, perché il 64% dei bambini nati da queste situazioni finisce per vivere a sua volta in povertà, e questi ragazzi hanno poi 8 volte le probabilità dei loro coetanei di finire in prigione, e comunque l'82% dei giovani in prigione sono dropout, sono cioè giovani usciti dal circuito scolastico prima del diploma. Il costo dell'incarcerazione: 44 miliardi di dollari all'anno. Il costo per attrezzare le scuole ad affrontare il problema? Beh, 13 miliardi di dollari. Ma i fondi per migliorare il sistema ancora non si trovano. Secondo me Barack Obama avrebbe fatto meglio a dedicarsi con maggiore energia a questo problema, che raccoglie poi un consenso bipartitico, piuttosto che a questioni molto più divisive, come ad esempio la riforma sanitaria. Children who grow up in poverty come to school distracted. Qualcuno naturalmente si mobilita. Ho intervistato Pamela Cantor, fondatrice e amministratore delegato dell'organizzazione Turnaround for Children, il cui obiettivo è quello di ridurre il gap di rendimento nelle scuole pubbliche, e così ci dice che i bambini che crescono poveri vengono a scuola tristi, distratti, arrabbiati. Ebbene, loro hanno organizzato una squadra di specialisti che direttamente si proiettano su alcune di queste scuole, le prendono in mano, agiscono da consulenti, introducono nuovi metodi, e ci racconta la Cantor che il risultato in genere del primo anno della loro azione è che 20-25 insegnanti se ne vanno, e dice: indovina che tipo di insegnanti sono? Beh, sono quelli che non hanno alcun interesse a imparare loro stessi nuovi strumenti e che soprattutto non hanno alcun interesse ad insegnare. E i risultati del suo progetto sono straordinari: quasi l'80% di studenti in scuole sotto l'egida di Turnaround migliorano, il costo $200,000 all'anno per scuola. Any teacher can be a change maker and any citizen can be a philanthropist. Ho sentito anche Charles Dust, lui invece ha fondato un sito internet, donorschoose.org, e si è inventato una nuova formula, quella della microfilantropia. Pochi dollari su un sito internet per mettere in contatto migliaia di insegnanti, migliaia di classi attorno al paese per migliorare la qualità dei corsi. Chris Cuomo, who's the younger brother of our next governor, Andrew Cuomo. Bene, eccoci alla sorpresa finale, davvero una sorpresa, perché la voce che avete sentito è di David Koch, un miliardario americano. Devo dire, ho intervistato alcuni dei protagonisti del settore educazione in America a casa sua. Perché c'è questa curiosità? Perché la sorpresa? Perché David Koch è nell'occhio del ciclone. Il New Yorker della settimana scorsa lo accusa di finanziare i Tea Parties, di voler affossare il presidente Obama. Lui smentisce, non smentisce di essere un conservatore, un repubblicano, ma smentisce di finanziare direttamente i Tea Parties. Questa voce di Koch è una nostra esclusiva, in questo momento direi forse uno dei personaggi più ricercati dai media americani. Pensate, da solo vale 17 miliardi di dollari, con il fratello è proprietario della seconda più importante azienda privata americana. E quindi abbiamo visto questo dibattito, abbiamo parlato con questi protagonisti del settore educazione in una villa meravigliosa sull'Oceano Atlantico. Il pubblico è misto, Koch è anche un filantropo a sua volta, e qui nel passaggio che sentiamo dice: passiamo il microfono a Chris Cuomo, giornalista del programma 2020, fratello minore del nostro prossimo governatore Andrew Cuomo. Ricordiamolo, Andrew Cuomo è un democratico, Koch è un repubblicano, anzi un libertario convinto. Eppure Koch, devo dire un po' abbacchiato da questa attenzione negativa dei media americani, finisce per ospitare un documentario della sinistra scritto e prodotto da due simpatizzanti di Al Gore, e direi che questo è un tipico dialogo aperto americano. Così ci si trova su sponde opposte, ma la porta per comunicare resta aperta. E forse abbiamo da imparare qualche cosa. La porta resta aperta soprattutto quando il bene comune, come in questo caso, è l'education, la pubblica istruzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La vorrei dedicare alla canzone scelta proprio dal regista Davis Guggenheim per la colonna sonora di questo suo documentario Waiting for Superman. Il gruppo è Matti Siao e con One Day. I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.